America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Domani discorso sullo Stato dell'Unione. Ci sono tensioni internazionali, dai postumi del terrorismo in Europa a nuove tensioni Israele-Hezbollah, ma Barack Obama dedicherà gran parte del suo discorso all'economia, nuove misure per sostenere la crescita, soprattutto a misure per il riequilibrio dei redditi. In sostanza chiederà aumenti delle tasse per i più ricchi. Insomma, devo dire, la sua è una posizione provocatoria. Nel fine settimana se ne è parlato molto, si è concluso che la posizione di Obama serve più a definire il dibattito in casa democratica che altro, perché i repubblicani che controllano il Parlamento non passeranno mai una legge per aumentare le tasse. E va dire, di questo parliamo mercoledì dopo il discorso. Oggi stiamo su un tema diverso, sulla pizza, anzi sulla pizza napoletana. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's amore, grande canzone italo-americana che parla di pizza. La pizza diventa un simbolo per gli italo-americani, al punto che la luna in cielo diventa un pizza pie. E ormai la pizza è un simbolo per tutti, anzi un gustosissimo prodotto alimentare per tutti. Pensate che in America il giro d'affari delle pizzerie, che sono circa 150.000 pizzerie, 150.000, si aggira attorno ai 38 miliardi di dollari. L'indotto poi legato al business di queste pizzerie addirittura 195 miliardi di dollari. Ci sono delle catene, la Domino Pizza, che è stata fondata da due fratelli italoamericani immigrati dal sud Italia, fa fatturato di 2,44 miliardi di dollari, una catena che è in tutto il mondo, come lo è Pizza Hut. Pensate, Pizza Hut è riuscito a fare 6.209 pizzerie, negozietti, poi lo fa molto per la vendita a domicilio, ma 6.209 negozi nel mondo. Però la gran parte del mercato e degli indipendenti, coloro che hanno una piccola pizzeria, ce l'hanno da solo, il cosiddetto mom and pop business, 53,24% del fatturato totale. Ci sono state polemiche, per darvi un'idea di quanto la pizza sia entrata, diciamo, nel gergo corrente degli americani. E, per esempio, quando Bill de Blasio, il sindaco, a un certo punto è andato nel suo pizza place locale a Brooklyn, che adora, e l'hanno messo in croce. Perché? Perché mangiava la pizza col coltello e la forchetta. Non si può, diceva, tu la devi mangiare come la mangiano tutti, cioè il slice, la fetta di pizza, te la mangi con le mani. Non solo, il presidente Barack Obama, pensate, ha parlato di pizza durante il discorso sullo Stato dell'Unione dell'anno scorso. Sentiamo. Nick Shute is here today with his boss John Serrano. John's an owner of Punch Pizza in Minneapolis. And Nick helps make the dough. Only now he makes more of it. John just gave his employees a raise to 10 bucks an hour. And that's a decision that has eased their financial stress and boosted their morale. Ecco, Barack Obama, l'avete sentito? Il presidente che parla di pizza nello Stato dell'Unione. Credo che abbia fatto storia, non credo che si sia mai parlato in America nel discorso dello Stato dell'Unione, che è questo discorso molto importante, simbolico, a Camere Riunite. Si parla dell'America, di dov'è l'America. Perché ha parlato di pizza? Perché parlava di John Serrano, che è un piccolo imprenditore locale di Minneapolis, che ha aperto una catena di pizzerie, una decina di pizzerie, e ha deciso di pagare i suoi dipendenti $10 l'ora, cioè di pagarli molto di più del salario minimo. Siccome Barack Obama dice che bisogna aumentare il salario minimo a $10 l'ora, dice: ecco, questo signore che fa la pizza paga i suoi dipendenti già $10 e dunque è un esempio per tutto il paese. Come pubblicizza la sua catena John Serrano? La chiama catena di pizzerie napoletane. E allora, ecco, forse qualcuno a questo punto, visto che entriamo così nel dettaglio, potrebbe avere qualche cosa da ridire. In particolare Alfonso Pecoraro Scanio, che sarà domani a New York per una iniziativa molto particolare, quella cioè di promuovere una raccolta di firme, di mobilitare l'opinione pubblica locale, di mobilitare gli italoamericani, ambienti influenti vicino alle Nazioni Unite, per far sì che l'UNESCO riconosca la pizza napoletana come un patrimonio culturale universale che appartiene a tutto il mondo e che sia riconosciuto per quello che è la pizza napoletana. O con me, Pecoraro Scanio, ai microfoni microfoni di America 24 e lo saluto. Buongiorno Pecoraro Scanio. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti di questa sua iniziativa? Perché la pizza napoletana deve entrare nell'UNESCO? Ma questa iniziativa nasce fino a quando ero ministro dell'agricoltura con la volontà prima di avere un riconoscimento europeo, e a settembre ho rilanciato un'iniziativa che avevo già promosso dal 2006 come ministro dell'ambiente, e abbiamo iniziato a raccogliere firme sulla piattaforma mondiale che si chiama change.org, ma nella versione italiana, e nei mercati italiani con la Coldiretti, con molte personalità italiane. Siamo arrivati in Italia a oltre 100.000 firme. E domani lanciamo anche la petizione nella versione in inglese sul mercato americano con una delle più grandi piattaforme di petizioni popolari al mondo, che è change.org. L'obiettivo è ottenere che l'UNESCO riconosca il sapere, la conoscenza tradizionale napoletana, che è poi quella che ha dato la base a quella pizza che mangiamo in tutto il pianeta. Ecco, allora, mi lasci fare un paio di domande provocatorie, perché io ricordo anche quando ci fu questa normativa europea che diceva in quanti minuti bisognava fare la pizza, e francamente devo dirle che l'Unione Europea, che ci dà direttive burocratiche su come fare la pizza, in America non lo capiscono. Allora, noi siamo un paese che è oberato da regole, da mille cose, non le sembra che forse un po' eccessivo andare a scomodare l'UNESCO per dire riconosciamo la pizza napoletana? Intanto io credo che qui la pizza, che sia italiana, lo sanno tutti, perché qualunque negozio americano c'ha una bandiera italiana, che poi siano americani o non americani, ce l'hanno lo stesso. Però perché non fare l'hamburger con l'UNESCO? Perché non fare il caffè? Cosa ne dice? Facciamo partire una campagna a tutto campo? O forse magari questa storia dell'UNESCO è un po' eccessiva? Ma da quando l'UNESCO ha istituito la lista dei beni immateriali, quella è esattamente la lista che riconosce le conoscenze tradizionali dei popoli. E quello che è evidente è che, mentre molte cose non hanno una storia, la pizza napoletana è l'unica che ha una storia secolare. Quindi è evidente che l'UNESCO riconosce queste cose, così come quest'anno è stata riconosciuta la modalità di fare il pane in Armenia, o è stata riconosciuta la dieta mediterranea, la pizza napoletana, l'arte della pizza napoletana è sicuramente una delle conoscenze più diffuse e anche più note del pianeta. Questo non obbligherà nessuno a fare la pizza per forza alla napoletana, ma farà in modo di difendere un patrimonio, di un bene che è diventato talmente popolare nel pianeta che rischia di essere snaturato, e quindi di aver perso le modalità di una conoscenza antichissima. Quindi diciamo l'idea è che per il futuro, per futura memoria, visto che poi le cose si perdono e qualcuno può confondersi, intanto stabiliamo la storia e il principio e poi si vede. Perché in effetti io devo dire la verità, adoro la pizza al taglio a Roma, la trovo squisita. Secondo lei potrebbe anche la pizza al taglio romana rientrare sotto l'UNESCO? Ma il concetto che non è che non ci saranno altre pizze che possano essere fatte in modalità diverse, magari delle pizze industriali che siano progressivamente migliorate in modo da essere anche più decenti di quelle che mangiamo spesso, ma la petizione serve a stabilire un principio. È importante riconoscere quali sono le modalità, cioè la pizza tradizionale napoletana storica si fa con quel tipo di lievitazione, si fa con l'olio extravergine d'oliva, si fa con i pomodori, si fa con delle farine che siano di qualità, e quindi è giusto che si sappia. Poi ognuno può mangiare quello che vuole, ci saranno tante altre cose buone che, anche se non sono nel patrimonio dell'UNESCO, sono sicuramente anche quelle buone. Per chiudere, Pecoraro Scanio, il signor Soranno, che chiama la sua catena di pizzerie, questo lo dicevo poco fa, pizzerie napoletane, ma glielo facciamo fare o no? Anche se l'UNESCO poi dice che si deve fare in un certo modo, cioè lui potrà continuare a chiamare le sue pizzerie napoletane? Ma noi sicuramente non è che interveniamo sulla dicitura delle singole pizzerie. Diamo e cerchiamo di sostenere uno standard. Le pizze fatte con l'arte napoletana si lievitano in un certo modo, si fanno con olio extravergine d'oliva, con alcune farine. Poi io spero che questo aiuti i cittadini di tutto il mondo a capire come fare bene le pizze a regola d'arte. Poi ci sono tante altre pizzerie e viva Dio, c'è una grande libertà in questo mondo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.